Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ci sono programmi televisivi che hanno cambiato la storia della televisione italiana. Lascia Raddoppia prima di tutto, poi Portobello, ma anche Drive-In, Le Iene, Il Grande Fratello anche, perché no? Tutti questi programmi in genere sono legati al destino dei loro conduttori, che spesso a loro volta devono la loro fortuna al successo della trasmissione che hanno condotto. Bene, oggi parleremo di un programma che ha rivoluzionato il modo di parlare e di ascoltare la musica in televisione, Piccolo Slam, e racconteremo della donna che ha diviso la conduzione di questo programma con un altro personaggio che aveva un grandissimo successo, che era Sammy Barbeau. Lei era una cantante, ballerina, presentatrice, una showgirl completa, fermata dal destino nel momento di maggior successo. Oggi sicuramente contenderebbe lo scettro di regina della televisione italiana ad altre sue colleghe. Noi oggi parliamo di Stefania Rotolo. Balletti, canzoni, duetti. Questa è la sigla che introduce Rita Pavone nel programma Partitissima 1967. A cantare questo coretto c'era un gruppo di ragazzi che Rita Pavone si porta dietro dai suoi esordi, dal Piper. Li chiamano i collettoni o i collettini, le ragazze sono le collettine. È un gruppo creato da Don Lurio e in questo gruppo ci sono artisti che conosciamo molto bene. C'è Loredana Bertè, sua sorella Mia Martini, c'è Renato Zero, c'è Mita Medici, e poi c'è lei, Stefania Rotolo. È una ragazza di Roma con il padre di origini pugliesi, di Alberobello, una madre austriaca, Marta Matusek, e lei prende i caratteri della madre. È bionda, la carnagione chiara, un carattere forte, deciso. Lei nasce a Roma nel febbraio del 51 in una casa nella quale respira da subito il profumo del palcoscenico. Mamma, che è viennese, una... Non è viennese. Era una ballerina dell'opera ballerina... di Vienna. È proprio ballerina classica. Sì, sì. E lei classica. Ti ha insegnato a ballare queste scompostezze moderne. Queste no? Scompostezze. Sì, allora, lei è stata sempre molto moderna. Ah, sì. Lei era diciamo una ballerina acrobata, perché ho visto molte sue foto. Sì. Cioè, del classico non aveva nulla. Lei si è stancata di stare a Vienna, di stare a questa opera di Vienna, ed è venuta in Italia e faceva parte del gruppo di Ghisa Gert. Questo era un programma mitico della televisione ieri e oggi, che ebbe presentatori grandissimi, tra i quali Luciano Salce, che abbiamo sentito prima. Bene, Stefania Rotolo racconta di questa madre che era entrata a far parte delle Bluebell, che erano guidate dalla coreografa Ghisa Gert, che in Italia aveva curato le coreografie di Garinè Giovanni, delle riviste di Macario, di Totò. La presenza di una madre ballerina spinge inevitabilmente Stefania a inseguire le orme materne, inizia a studiare danza e a 14 anni è già in pista al Piper, la mitica discoteca dove inizia a farsi notare dalle tante persone del mondo della televisione che frequentano quel locale. Nel 1970 Stefania Rotolo partecipa alla versione italiana del musical Hair, dove ci sono molti artisti esordienti che faranno parlare di loro, Ronnie Jones, Teo Teocoli, e peraltro è un'edizione che solleva molte polemiche per una celebre scena di nudo maschile, che a quei tempi ovviamente scandalizzava molto. Sono gli anni dei provini, delle selezioni, dei tentativi per entrare a far parte di qualche spettacolo teatrale, gli anni della gavetta, che lei però trascorre studiando, perfezionando il suo stile, e non lo fa in Italia. Lei parte per New York per studiare ballo. E siccome la vita è fatta di incontri, a New York Stefania conosce un sassofonista brasiliano con cui intreccia una relazione, si chiama Tyrone Harris. Lei avrebbe dovuto stare via dall'Italia qualche mese, invece va in Brasile per amore, ci rimane tre anni di studio in cui lei perfeziona anche il canto, impara a ballare il samba nella scuola di João Gilberto. Poi però accade qualcosa che cambia le carte in tavola. Lei rimane incinta, il suo compagno non vuole saperne di diventare padre, così la loro storia d'amore termina piuttosto bruscamente. Lei torna a casa e il 26 luglio a Roma nasce Federica, il 26 luglio del 72. E adesso c'è una bambina piccola da accrescere, ma lei non si perde d'animo e mette a frutto gli anni trascorsi a studiare, a perfezionarsi. Viene ingaggiata prima in un'edizione del Cantagiro, poi a teatro con Gino Bramieri. Nel 74 balla assieme a Charles Aznavour nel programma Io tra di voi. Quella aspettare è una cosa curiosissima, cioè Aznavour quella canzone che rappresentava insieme la faceva con la Liza Minnelli. In quel periodo ero io una moretta, avevo i capelli scuri. Insomma, una allora abbiamo fatto con il truccatore, si è messo lì, guarda, facciamo uno scherzo ad Aznavour perché lui sempre con Liza Minnelli, Liza Minnelli mi ha truccato da Liza. Assomiglia un pochino a Liza, adesso mi ha fatto un pochino bionda. Sì. Ha messo queste cigliona finte, questo naso più a patata. Io ce l'ho a patata, però. Sì. Un'altra patata. E l'hanno chiamato in camerino. A un certo punto mi sono rivoltata. Liza, no, sono Stefania. Piccoli passi che però messi assieme costituiscono un cammino importante per Stefania Rotolo, che si fa notare anche dai registi più importanti della televisione, una televisione che sta cambiando, che cerca volti nuovi e vuole essere al passo coi tempi, vuole attirare il pubblico dei teenager, e Stefania è la ragazza giusta per rappresentare al meglio quel grande cambiamento che sta avvenendo nel mondo della musica. A New York si sta affermando un nuovo genere musicale, la disco music. I ragazzi hanno voglia di ballare, gli idoli sono i Bee Gees, Donna Summer, gli Chic, gli ABBA. Insomma, per Stefania Rotolo si sta avvicinando il momento del colpo d'ala. Il falco e il gabbiano. 1977, in tutto il mondo esce La febbre del sabato sera, un film che segna una vera e propria svolta nel mondo dei giovani, che si dividono in due correnti di pensiero ben distinte. Da un lato il rock e soprattutto il punk, che nasce anche lui nel 77, e dall'altra parte la disco music. Tu incontravi un ragazzo, capivi subito già da come era vestito che musica gli piaceva. Anche la televisione italiana intanto sta cambiando, iniziano le trasmissioni a colori, inizia un avvicendamento di personaggi, di conduttori più giovani che si affiancano ai più famosi. Peraltro stiamo parlando di un palinsesto composto da due canali, il primo e il secondo. Nel 1979 arriverà Rai 3. E Stefania Rotolo è una giovane showgirl, sa ballare, sa cantare, una buona parlantina, un look molto moderno, con i capelli corti, biondo, che poi diventano biondo platino, poi rossi, poi mori. Insomma, gioca con il suo aspetto, e alla Rai vogliono proporre una nuova trasmissione che parli ai giovani, cosa che non è mai stata fatta prima di quel momento, o molto raramente. Una trasmissione che attiri il pubblico dei teenager. Insomma, si pensa a un programma musicale che potesse riprodurre l'ambiente di una discoteca, con i cantanti che si esibiscono dal vivo, però dove si ascolta, si balla musica, suonando direttamente i dischi. Insomma, viene scelta lei, Stefania Rotolo, e le viene affiancato un conduttore capace di dare, diciamo, un tocco esotico, internazionale al programma, perché viene chiamato Sammy Barbeau, un disc jockey originario della Martinica. Piccolo Slam è un programma nuovo, sperimentale. Per cominciare ne vengono prodotte solo 12 puntate, ma il successo è travolgente. In quella discoteca televisiva i ragazzi si divertono, si identificano. Insomma, la Rai decide di produrre altre puntate. Ogni martedì e giovedì alle 18.30 i ragazzi italiani si raccolgono davanti agli schermi di Rai 1 per ballare le hit del momento, per ascoltare Sammy Barbeau e Stefania Rotolo lanciare i loro slam verso il pubblico a casa nel programma più classico, Dediche e Saluti. Disco Bass dei Didi Sound. Dico com'è? Discoteca il basso, go! Mando un super slam a Antonella e Rosaria di Trapani. Slam, slam, slam! Io Enza, Maria Grazia e Enza di Mistretta. Slam, stra slam, ultra slam! Dai Sammy, andiamo a ballare. Insomma, il grande successo porta la Rai a raddoppiare. Le puntate da 12 diventano 24. Alla fine saranno 80. E lei diventa il volto più famoso, più apprezzato dei giovani, molto amata dal pubblico perché è diversa dalle soubrette che si sono viste fino a quel momento in TV, perché lei canta, balla con un'energia incontenibile, si muove in un modo molto più vicino alla sensibilità afroamericana e lontano dallo stile europeo delle ballerine un po' ingessate che la precedevano. E poi ci sono i viaggi all'estero che le hanno affinato lo stile, prima a New York, poi in Brasile. Insomma, lei è un personaggio che è pronto a diventare di primo piano. È pronta per lo spettacolo più importante della televisione italiana, cioè è pronta per lo sbarco in prima serata. La presentiamo alla loro maniera. Attenta, Dal pianeta Piccolo Slam, la ragazza uragano 1978, Stefania Rotolo. 1978, la canzone Go è la sigla della seconda edizione di Piccolo Slam e lei quell'anno vince il Telegatto per la miglior sigla televisiva, il premio popolarità a Radio Monte Carlo. Le copertine dei giornali si contendono questa ragazza che viene definita l'uragano, e nell'aprile di quell'anno, terminato Piccolo Slam, lei comincia a girare le discoteche con uno spettacolo itinerante, appunto Uragano Slam. Lei si esibisce in compagnia di ballerine, le discoteche si riempiono, tutti vanno a vederla, e intanto in TV partecipa a una trasmissione rivoluzionaria che è Non Stop, diretta da Enzo Trapani, e lei interpreta la sigla finale, Spacco Tutto. Ok ragazzi, qui è finito tutto, si sparacca! E poi nel 79 lei viene chiamata a condurre assieme a Gianfranco D'Angelo il programma Tilt, uno show di 7 puntate che riprende un po' lo stile di Piccolo Slam, però con un inserimento, ospiti e monologhi comici. E lei è la padrona di casa perché conduce, balla e riesce a ottenere anche un grande successo come cantante. Nel programma lei canta la sigla iniziale che si chiama Discotique, poi canta ancora una specie di seconda sigla studiata per accompagnare i bambini a letto a una certa ora, un po' come si faceva quando si diceva a letto dopo carosello. Ed anche per voi bambini, e per voi la Baby Music. Baby Music con due miei piccoli amici, Claudia e Danilo. E sapete cosa dico a te mamma e a te papà? Le favole di un tempo sono roba da museo, e se tu me le propini io ti faccio Maraveo. Insomma, sono le prime occhiate interessate dello show business al mondo dei ragazzini, degli odierni bimbi minchia. E oggi ci sono, insomma, i rapper per loro. Una volta c'erano queste cose, quindi la sigla che diceva andate adesso a letto, ma il colpo d'ala vero e proprio è la sigla finale. Stefania Rotolo si trasforma, abbandona l'uragano per presentarsi con un tono più sofisticato, più classico, e lei fa centro. C'è una canzone che è stata scritta da Malgioglio e da Corrado Castellari, un grande autore, si chiama Cocktail d'amore, diventerà la sua canzone più famosa. È un momento di grande felicità per la ragazza del Piper, le si sta spalancando un futuro eccezionale, lei sta per diventare la regina della televisione italiana, a meno che non succeda qualcosa. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Stefania Rotolo, ballerina, cantante, presentatrice, una showgirl completa che è alla fine degli anni 70, nel pieno della disco music, è diventata famosa presentando con Sammy Barbeau il programma Piccolo Slam, con cui il mondo delle discoteche in qualche modo entra nelle case degli italiani. Era una ragazza solare, sempre sorridente, piena di energia, l'avevano soprannominata la ragazza Uragano. In due stagioni del programma era riuscita a ottenere successo anche come cantante, è stata chiamata a presentare poi un programma da prima serata che era Tilt. Terminata l'ultima puntata del programma, il 3 gennaio 1980, lei è l'artista più desiderata. La Rai le fa subito realizzare uno speciale dal titolo Chroma Key Follies, nella quale vengono riprodotti tutti i balletti che Stefania ha presentato nel suo ultimo programma. E questo film va addirittura al Festival Internazionale della Televisione a Montreux, in Svizzera. Arrivano anche le televisioni estere, arrivano le proposte dall'estero, la TV spagnola, quella messicana, arrivano offerte da tutti i posti del mondo. Insomma, lei sembra destinata a eguagliare il grande successo che ebbe e ha Raffaella Carrà. Poi invece c'è anche una piccola TV privata milanese, si chiama Tele Milano 58, che ha un presidente con grandi ambizioni televisive, che vuole creare una televisione che possa fare concorrenza alla TV pubblica. Questo presidente si chiama Silvio Berlusconi e lui ha già convinto Mike Buongiorno, vuole Stefania Rotolo tra le sue showgirl. E sentite i complimenti che riceve da Renzo Montagnani ancora nella trasmissione Ieri e Oggi di Luciano Salce. È una grossa gioia per me rivedere anche queste cose, vedere che è proprio Stefania a fare, perché ultimamente abbiate pazienza, sono polemico. Sì, polemico. E in televisione c'è Sidney Rome come prima donna, che lei è americana. C'è Nadia Cassini, che lei è americana. Eder Parisi, che lei è americana. Non si vede più un'italiana, quando specialmente è facile constatare una bravura, una predisposizione, una capacità, delle doti proprio da spettacolo, spettacolare come quelle di Stefania. Grazie. Guarda, ti faccio un applauso di cuore. Beh, sì, sembra un po' di sentir parlare della TV di oggi. Comunque, quando è il momento di sfruttare al massimo la notorietà raggiunta, di scegliere anche la migliore offerta, Stefania Rotolo è costretta a prendersi una pausa, perché da qualche mese lei soffre di improvvisi malori che la indeboliscono, che la lasciano debilitata. Lei non è il tipo da lasciarsi scoraggiare da quella che lei pensa possa essere solo un po' di stanchezza. Rimanda le visite mediche, i controlli, gli esami, e quando le visite mediche vengono fatte è troppo tardi, la sentenza è terribile. Lei deve operarsi urgentemente per togliere un tumore che la sta consumando. E Stefania affronta la malattia con grande dignità, e forse il colpo d'ala più grande di una carriera troppo breve ma costellata da colpi d'ala positivi. Lei per tutta la vita ha dimostrato un carattere forte, deciso, ha affrontato prove dure, la partenza dall'Italia per migliorare, poi ha messo in gioco tutto per amore, poi ha avuto la forza di crescere una bambina da sola senza preoccuparsi del giudizio della gente. E quando è arrivata la popolarità, lei ha mostrato il lato più ottimista, ha mostrato con orgoglio sua figlia, condividendo le copertine, sempre sorridendo, cancellando quel pregiudizio che in qualche modo ancora rappresentava le ragazze madri come donne in difficoltà, come donne colpevoli di qualcosa. E lei è una donna indipendente, emancipata, in grado di cavarsela da sola, ancora una volta da sola affronta la sua battaglia più difficile. È morta questa mattina a Roma Stefania Rotolo, cantante, ballerina e fantasista, colpita dal riacutizzarsi di un male incurabile che già l'anno scorso l'aveva tenuta a lungo lontana dal pubblico. La giovane cantante aveva 29 anni, lascia una figlia, Federica. Eh sì, come al solito viene usata la scorciatoia di dire male incurabile per non affrontare la realtà. Nel 1981, il 31 luglio, lei ha un nuovo malore e questa volta il suo fisico non regge. La Rai le aveva proposto di interpretare Peter Pan in un musical a fianco di Vittorio Gassman. È un musical che ovviamente non verrà mai realizzato. Stefania Rotolo muore. Lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ha avuto una carriera travolgente interrotta troppo presto. Siamo certi che lei avrebbe dominato per molti anni la scena come prima donna. Renato Zero scrive una canzone in suo onore, in onore della sua vecchia amica, e la presenta anche in una maniera struggente. Volevo salutare dei miei amici artisti che non sono potuti venire qui perché hanno un altro palcoscenico sul quale esibirsi, che è l'infinito. Volevo salutare Stefania Rotolo e ringraziarla e ringraziarla perché una parte di me, quella che amate, è cresciuta insieme a lei. Sì, peccato poi che Renato Zero, insomma, non si sia fatto trovare quando gli abbiamo chiesto se voleva parlarci di Stefania Rotolo. Ma noi, per ricordare quegli anni, abbiamo al telefono l'uomo che ha condiviso con Stefania Rotolo questa meravigliosa avventura che cambiò la televisione italiana. Abbiamo Sammy Barbeau. Buongiorno Sammy. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie, senti, raccontami un po' la partenza, cioè tu facevi il DJ in Italia? Beh sì, è stata una parentesi nella mia vita, sì. Nel senso che ancora stavo all'università a Parigi, alla Sorbonne, e venivo quindi ogni tanto, prendevo delle vacanze, uh-huh. E in quel periodo, quindi ti parlo di fine anni 70, sì. E c'è stato un mio amico proprietario di un locale in Piazza del Popolo a Roma che un giorno è rimasto quindi senza DJ, mi chiese, mi disse: guarda, vieni a darmi una mano, sono nei guai eccetera, e non avevo mai fatto il DJ, ok? E mi disse questa frase storica: guarda Sammy, tu sei un musicista, sei un cantante, quindi lo farai sempre meglio di chiunque altro metta lì, perché non so, dovrei mettere questo. Primo passante, il primo che mi viene, eccetera. E però andò molto bene. Senti, come l'hai conosciuta poi Stefania? Cioè, ti hanno messo in televisione, hai trovato questa partner, come è avvenuto il vostro? Ma diciamo al contrario, nel senso che dopo questo favore che ho fatto a mio amico, quindi una cosa forzata, ho cominciato a fare il DJ. Sì. E Stefania era una cliente di questo, sì, Charlie Club. Sì. Di, veniva, ci siamo conosciuti e ci divertivamo la sera a ballare. Lei era accompagnata dal suo compagno partner di allora, che si chiamava Marcello Mancini. Sì. E quindi siamo diventati amici. Nel frattempo, facendo quindi il disc jockey in questo locale, se ne parlava poi in tutta Roma, perché facevo delle cose che nessuno aveva mai visto. Per esempio, visto che mi annoiavo a mettere i dischi da musicista, preparavo delle basi musicali e ci cantavo. Ma nessuno l'ha mai fatto, quindi sì, certo, questa cosa ha fatto un gran rumore, sì. Quindi sono venuti alcuni personaggi della televisione a sentire questo personaggio, ma chi è? Ne parlano tutti. E venne anche Bruno Voglino. Ah, il mitico funzionario della RAI. Quindi sì. Cercavano quindi dei nuovi talenti per la televisione, hanno visto questa faccia mia vicino a quella di Stefania, quindi era curiosa. Sì, beh, certo, eravate una coppia che funzionò tantissimo. Senti, che ricordo hai di Stefania? Stefania era una grande amica, una grande collega, quindi abbiamo lavorato molto bene insieme. E diciamo la particolarità, quello che mi ha sempre colpito di Stefania, è che lei aveva comunque una determinazione, una forza di volontà fuori dal comune. E guardando un po' attorno, credo che è questa forza di volontà che è un po' la caratteristica delle donne importanti dello spettacolo, sì, italiano. Parlo della Carrà, della Parisi, queste qua. Al di là del talento, è questa determinazione, sì, a tutti, sì, i costi, sì. Stefania era questo. Lei dalla mattina alla sera, se doveva fare un balletto, una cosa, lei ce la metteva tutta. È una cosa che per esempio io non ho, che io da artista, quindi sono molto molto pigro, molto sognatore, quindi, sì, sì. Quindi lei era l'esatto contrario mio, lei ce la metteva tutta, e così insieme, insomma, per le caratteristiche diverse, certo, che avevo io, che lei, certo, aveva messo insieme, faceva questa miscela esplosiva, ecco, quindi abbiamo avuto questo risultato, certo, che è stato qualcosa di clamoroso, insomma, in Italia. Senti, hai qualche ricordo del suo ultimo periodo, insomma, di quello della malattia, quello del diciamo che poi era un periodo in cui viaggiavo molto, tra l'altro, ma ho avuto occasione di andare lì a trovarla, ci siamo visti, insomma, ormai si capiva bene la gravità della... certo, e sai, in queste situazioni c'è sempre una enorme dose di imbarazzo, perché certo, di non detto. Non sai esattamente cosa dire, cosa non dire, quindi sono questi momenti in cui parlano, certo, gli occhi, sì, sì, parlano, sì, il body language, quindi certo. questo momento in cui tutti avevamo capito dove, in quale direzione stavamo andando, e io personalmente ho cercato di starle vicino. Certo, il suo certo. uomo Marcello, tra l'altro, è stato uno dei miei migliori amici, quindi sì, abbiamo sì, cercato sì. di fare quello che riuscivamo a fare, ecco. Certo. E poi insomma questo momento per lei in cui lei capiva quindi che cosa stava succedendo, e gli occhi parlavano, il dispiacere, la tristezza, la disperazione, certo, certo. Però insomma sono queste cose che vanno così. Noi siamo molto fragili, molto deboli di fronte a situazioni insomma come queste. È vero. Semi, ti ringrazio infinitamente, complimenti, in bocca al lupo. Anche a te, grazie dell'invito. ciao. Eh sì, non possiamo non pensare a che cosa sarebbe stata la carriera di Stefania Rotolo se non fosse stata interrotta così bruscamente. L'abbiamo detto all'inizio, ma lo ridico: abbiamo perso una grande signora della televisione, una grande professionista, ma soprattutto una donna entusiasta. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @radio24.it se conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, oppure seguitemi, interagite sul sito di Radio 24, insomma venite a trovarmi nei miei social, lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.